col dottor Marco Zavotti, al quale diamo l'incarico di dissertare su questo fantastico premio che è stato appena attribuito. Davvero un grazie, innanzitutto sono molto contento di rientrare, di tornare, insomma, in trasmissione con Antonio Ceccato, Gesuina Maccari, che proprio mi hanno reinvitato proprio di recente. Io sono qua stasera e quindi è davvero un saluto particolare a tutti e a ciascuno. Sì, il 7 ottobre abbiamo tenuto, insomma, questa cerimonia finale del premio Giuseppe Tognolo 2016, la prima edizione. Noi eravamo già stati in queste riflessioni sul perché, no? Riandare alle radici di questa storia, di questa straordinaria figura di sociologo e di economista cattolico, nato appunto a Treviso, che è sepolto nel Duomo di Pieve di Soligo, diventato beato, proclamato beato dalla Chiesa nel 2012. Ecco, sulla scia di questo è nato un progetto di cultura e turismo religioso, appunto Beato Tognolo e Via dei Santi. Dentro questa progettualità c'è il premio Tognolo. Tre sezioni, la prima è dedicata al pensiero, cioè alle persone che hanno, in quest'anno il tema era proprio dedicato all'impresa e lavoro, il primato dell'uomo, quindi le sfide per l'economia di oggi alla luce proprio del pensiero tognoliano. Sappiamo che su questo c'è ovviamente per noi una straordinaria attualità, e quindi la prima sezione è appunto dedicata a coloro che in questi anni hanno dedicato appunto le pubblicazioni, delle monografie, dei saggi, dei libri, dei volumi, insomma degli articoli su questo aspetto fondamentale del pensiero del Tognolo. Una seconda sezione invece, azione e testimoni, abbiamo pensato che ci potessero essere esempi di imprese, di aziende, come dire, particolarmente virtuose, ecco, in questo campo, cioè che hanno valorizzato l'esperienza umana dentro il progetto economico di un'impresa, di un'azienda. Esempi concreti. Esempi quindi. Concreti di buon governo, di buone pratiche, buona governance. Mm-hmm. Terzo aspetto invece in particolare legato ai giovani, perché è nell'ottica della tradizione, cioè del consegnare, no, le generazioni successive, anche il senso generazionale. Esattamente, consegnare questo pensiero, questo stimolo, questa azione che poi è stato per noi nella marca trevigiana in particolare, no? È stato fondamentale per far nascere esperienze concrete di cooperazione, di mutualità, di imprese in quest'ottica, ecco, di valorizzazione delle persone, di promozione anche di un'idea alta della vita sociale ed economica. Ecco, i giovani quindi con due sezioni legate un po' alla storia e legate un po' all'attualità, quindi due tracce possibili, e quindi entro il 30 giugno scorso c'era la possibilità appunto di aderire, ci sono state ovviamente indicazioni da un lato, partecipazione concreta in particolare da parte dei giovani, e noi 7 ottobre, preceduti tutto questo nell'auditorio in Battistella Moccia di Pieve di Soligo, preceduto questo da una solenne concelebrazione, perché il 7 ottobre di quest'anno era il 98esimo anniversario della morte di Tognolo, abbiamo svolto questa prima edizione, che tra l'altro è stata allietata dalle esecuzioni splendide del coro orchestra in musica Gaudium di Oderzo, diretta dal maestro Battista Prodal. Ecco, mi permetto di dire che tutto questo è visibile anche con un video appunto sul sito della Tenda TV della Settimana Diocesana Vittorio Veneto l'Azione. E la serata appunto è stata anche una serata in cui è stato ricordato Monsignor Massimo Magagnin, che è stato un vicepostulatore purtroppo scomparso dieci mesi fa, è stato uno che ha animato tantissimo, un decennio di attività, insomma, del Comitato per la Beatificazione Diocesano. Abbiamo ricordato con un video, e ci sono stati soprattutto una serie di interventi e passaggi che poi sono arrivati all'intervento di Monsignor Adriano Vincenzi, che è presidente della Fondazione Tognolo di Verona, che ha ribadito i termini dell'attualità, del pensiero oggi del Tognolo dentro il contesto completamente mutato, ma in cui più che mai risalta, insomma, la necessità di riandare alle radici di questa esperienza, di questa storia, e soprattutto poi sono stati premiati. Nell'ordine abbiamo cominciato con i giovani, qui è stato il gruppo giovani della parrocchia della cattedrale Vittorio Veneto, che hanno proprio sulla storia locale del movimento cattolico legato a questo, hanno prodotto un testo, un elaborato, proprio come lavoro di gruppo di quarta e quinta superiore, quindi accompagnati anche dal loro docente. Sì, quindi è stata una bella ventata di freschezza e giovinezza. Una porta di aria nuova. Ecco. Poi il secondo premio è proprio per quanto riguarda le azioni e testimoni a risalire. Abbiamo premiato il welfare aziendale di Luxottica. Quindi in particolare appunto Leonardo Del Vecchio, il presidente, e Luxottica, perché da questo punto di vista, sia per quanto riguarda appunto la staffetta generazionale, sia per quanto riguarda il bonus vita, cioè quel contributo importante che nell'ordine di 30.000 euro che viene dato nel caso in cui un lavoratore perda la vita e che quindi c'è questo attestato, insomma, di solidarietà verso la famiglia. Vero. Poi che viene addirittura più che raddoppiato, va a 70.000 euro nel caso ci siano figli minori, persone disabili o quant'altro, ma soprattutto anche quel percorso, appunto, che consente a dei lavoratori di mantenere, come diventati, la loro dinamica di contributo previdenziale, ma favorisce al tempo stesso l'ingresso di altri giovani nel contesto aziendale. Come a dire, la risorsa, il talento, l'ingegno, le persone dentro un contesto economico in cui tutto questo viene, come dire, esatto, accompagnato, esaltato, promosso e valorizzato. Questo ci è sembrata un'esperienza molto importante. Sono venuti, appunto, due rappresentanti della Luxottica a portare anche il saluto e il ringraziamento, appunto, dell'azienda. E come premio invece, per quanto riguarda la sezione pensiero, l'arcivescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, che sappiamo, oltre che essere presidente del comitato per la beatificazione, è già stato postulatore, ma è soprattutto un grande studioso, ecco, della figura dell'opera di Giuseppe Toniolo. Ha scritto numerosi libri, biografie, ma anche si è concentrato, approfondito il pensiero economico, e quindi a questo punto di vista è stata per noi una convergenza umanima a livello di giuria di poter segnalare. E in questo contesto è stato rappresentato dalla presidente del Serafico, dell'Istituto Serafico di Assisi, nonché direttrice della Scuola di Formazione Sociale, guarda caso intitolata al Toniolo, proprio di Assisi, che in questo si è rivolta in particolare anche ai giovani e ha fatto un intervento che è stato molto molto apprezzato, oltre a quello degli altri presenti. Insomma, è stata una bella serata. Fondamentale. Una cosa mi viene da chiederle, perché sì, c'è questo problema della scarsa, come dire, consapevolezza, io credo, da parte delle istituzioni, da parte anche dei singoli che potrebbero influire sul funzionamento delle istituzioni, sulla necessità di lasciare una testimonianza, sulla necessità dei mezzi di comunicazione di poter registrare, per esempio, questo e altri eventi. Non c'è, a mio avviso, e posso anche sbagliare naturalmente, questa consapevolezza, questa capacità di capire quale importanza hanno i mezzi di comunicazione nel diffondere anche questa cultura, nel tornare alle radici, eccetera eccetera. Lei cosa mi può dire? Sì, lo avvertiamo e questo ci è un po', ci rammarica, perché poi è una lotta quotidiana rispetto a queste dinamiche che vedono sovraesporre magari temi, persone, esperienze che ben poco hanno da, come dire, da comunicare, da, ecco, dire di vero, ecco, di buono, di bello, appunto, di buono, di educativo, e come dire, anche, come dire, che sia un qualcosa che aiuta le esperienze di tutti, di ciascuno, che vada al fondo della verità, anche, come dire, accarezzi e dia giusto rilievo ai sentimenti, che susciti, ecco, questa idea di buon vivere, no, dentro un tema di comunità. E al tempo stesso invece vengono scordate esperienze magari che da questo punto di vista non è stato per fortuna il caso nostro, ma dico, c'è questa fatica, perché se poi si passa dal livello quello locale, territoriale, ai livelli ancora superiori, purtroppo vediamo una comunicazione ancora che peggio. Penso, purtroppo, lo dico anche alla RAI, in cui davvero alcune trasmissioni che potrebbero essere, appunto, anche nel segno della storia, della cultura, vengono a orari improponibili su una delle reti, come dire, secondarie, mentre la TV generalista si occupa di ben altro. Quasi un alibi per dire, beh, lo facciamo, sì, comunque, però lo evidentemente facciamo. È una cosa di nicchia che non ha significato. Forse c'è stata anche una qualche distrazione, una dissipazione anche da parte del mondo cattolico. Forse abbiamo inseguito temi particolari, e non ci siamo accorti per tempo che c'era una sfida che era quella della comunicazione che andava. Ed è proprio su questo che io credo bisognerà così fare delle considerazioni in futuro. Questa naturalmente è solo una mia opinione personale, ma ritengo tecnico, per così dire, tra virgolette, eccetera, di notare questa non disaffezione, questa distrazione che però è deleteria. E certo, quindi occorre, credo, un'azione proprio di. E la cosa che consola è che bisogna accettare questa sfida, avere coraggio e mettersi in campo. Cioè, quello che io ho registrato personalmente, ma insieme al gruppo che ha coordinato tutta questa iniziativa, che le sta lavorando sul territorio, è stato, come dire, la risposta. Finalmente abbiamo capito, è tempo di tornare a queste dinamiche, c'era tempo di tornare latente, a questi messaggi, quindi. Esattamente, noi dobbiamo farci in qualche modo innanzitutto promotori di questo, e dopo fare uno sforzo poderoso di rete, cioè mettere insieme tutte queste esperienze, mettere insieme tutte queste realtà che hanno questo, lo chiamo io idem sentire, che sentono esattamente che oggi c'è una sfida nuova dal punto di vista proprio anche dell'educazione, della scommessa, dei valori fondanti, insomma, di questa nostra comunità umana, e ripartire da un territorio come quello trevigiano e veneto, che comunque conserva radici profonde e ha esperienza storica di grande valore, ha grandi personalità, figure che oggi non sono da conservare in archivi, in museo, ma sono persone straordinarie, testimonianze che valgono per molto oggi. Da dire anche a noi. E oggi. Quindi su questo c'è una scommessa di modernità. Dobbiamo stare dentro la modernità, però convinti che c'è una positività, c'è un'esperienza che va comunicata. È un po' come dire siete nel mondo, ma non siete del mondo. Certo, ma dentro gli strumenti e i meccanismi anche della comunicazione di oggi, noi dobbiamo esserci. Perfetto. Allora noi passiamo a un secondo brano musicale, sempre di Achille Togliatti. La signora di 30 anni fa. Il cuore mio indiscreto, pace ancor non si dà, sempre più sveglio, più inquieto, non si rassegna alla sua età. Ricordato in gran segreto una signora di 30 anni fa, nel 1919, vestita di voile di chiffon, io l'ho incontrata, non ricordo dove, nel corso pure a un ballo cotillon. Ricordo gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu. Poi vi giurai d'amarvi eternamente, di chi amavate non ricordo più. La vita mia perduta, se l'amor se ne va, oggi il mio cuore che non muta, che non si piega alla sua età, cerca la sua signora sconosciuta, la sua signora di 30 anni fa. Ricordo il primo bacio che ho dato, tremando d'emozione, di passione, un bacio lieve timido posato tra quei capelli corti alla garçon. Poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più, nel 1919, vi chiamavate, non ricordo più. Ritorniamo in studio con il dottor Marco Zabotti, al quale lasciamo il compito di continuare in questo percorso. La riflessione è proprio, credo, legata al tema del ricordo. E io così, proprio stamattina, a margine, citavo proprio il fatto che la radice del termine, poi della parola, è proprio il cordis, no? Il cuore. E vuol dire ricordare, vuol dire proprio rimettere al centro del cuore. Noi facciamo oggi fatica a ricordare. Siamo dentro un contesto di vita connessa, iperconnessa, costantemente messa e giocata nei meccanismi della velocità, nei meccanismi dell'assoluta leggerezza, che ci impediscono, come dire, di fondare, di ricordare, di mettere veramente al centro della nostra riflessione anche quella che è un senso di una profondità e di una lentezza, che è l'altezza, è anche la lentezza e la gioia di quello che si può davvero gustare dentro la radice del nostro animo, dentro la radice di quello che noi siamo, di quello che gustiamo nelle relazioni, di quello che oggi non si risponde più alle mail, oggi non si risponde più ai messaggini, oggi si fa fatica a salutare, esatto. Oggi si fa fatica a, come dire, a fare una telefonata gratuita, perché oggi se c'è qualcuno ci telefona rischiamo di pensare che ci sia qualcosa di grave. E allora, come a dire, noi dobbiamo recuperare fino in fondo questo senso del ricordo, che vuol dire il senso pieno della nostra umanità. Diciamo che leggerezza potrebbe essere declinata come evanescenza, forse? Esattamente, volevo dare una definizione, mentre una leggerezza che è la leggerezza calviniana, diciamo. Esattamente, è altro. E in questo senso però io voglio dire che lo ricordava qualcuno, che noi dobbiamo recuperare fino in fondo in questo momento qua, so che è difficile, ma noi dobbiamo farlo, il senso di quello che è stato sempre la storia dell'umanità, che si è dedicata con amore non a imprese estemporanee, ma a imprese di grandissima solidità e di lungo periodo, che poi, guarda caso, ci sono state consegnate e di cui oggi noi gustiamo fino in fondo, certo, la bellezza, le ragioni, il fascino e tutto. Cioè, come a dire, le grandi opere architettoniche, le grandi opere letterarie, le grandi opere musicali non sono state il frutto di una leggerezza, come dire, immotivata o di una, come dire, improvvisazione. Sono stato il frutto di una dedizione costante, profonda, che ha richiesto tempo, che ha richiesto concentrazione. Noi rischiamo di non avere più la possibilità di concentrarci sulle nostre cose. E che vuol dire dedicare alle cose, alle persone, anche del nostro tempo? Vuol dire voler bene, perché questo è poi alla fine il significato. Vero. Tutte queste espressioni che oggi ci sono state consegnate, di cui che giustamente noi oggi gustiamo, sono il frutto di un grandissimo amore, di una grandissima passione, di una genialità, che però ha avuto bisogno di tempo, ha avuto bisogno di profondità, e noi oggi rischiamo di rimanere sempre costantemente in superficie. Cioè la banalità dei messaggi, la banalità anche di un analfabetismo sentimentale, di questo consumare tutto e comunque, non c'è più il senso dell'attesa, il senso di una pazienza, che vuol dire anche saper attendere il tempo, saper attendere e gustare nel modo e nelle forme giuste e appropriate quello che noi giustamente possiamo avere. Allora, da questo punto di vista, ma questo non lo diciamo, come dire, per una sorta di risentimento, ma perché noi dobbiamo gustare di più quello che siamo, dobbiamo mettere più in moto il senso della gratitudine per quello che, per i doni che ci sono offerti, e il senso anche di questo dedicarci agli altri, a noi stessi e agli altri, però con un senso davvero più profondo di valori e di significati. Ecco, da questo punto di vista, per esempio, il premio Toniano da un lato, ma anche il recentissimo premio Giovanni Paolo II internazionale, che ho vissuto a Mogliano sabato scorso, è stato, guarda caso, poi ho incontrato Gesuine, quindi non sapevamo di questo, ma è stato anche nel breve saluto finale che ho dato, è stato il senso del dire: oggi facciamo una memoria pubblica di storie individuali, di persone che siano dedicate alla ricerca, al lavoro, all'impresa, al volontariato, lo fanno ogni giorno con profondità e col senso della dedizione. E poi anche questi organizzatori che hanno messo in moto questo tipo di esperienze, che hanno voluto, come dire, renderle pubbliche, che hanno voluto, come dire, scegliere, analizzare con cura i curricula, come dire, dare senso e significato a tutto, sì, questo. E queste persone che spesso vivono nell'anonimato, vivono e realizzano opere di straordinario ingegno, di straordinario talento, di straordinario amore, perché poi si dedicano ogni giorno, magari lontani con dalle passione, telecamere, vero? Lontane dai grandi riflettori, con pudore, diciamo, ecco. Dalle grandi, sì, con questo senso di dignità. Io però ho detto anche che il terzo aspetto è che importante da sottolineare è stato che queste persone non hanno atteso le buone notizie, ma hanno saputo realizzarle. Oggi bisogna anche avere questa capacità, e torno alla prima riflessione, la comunicazione, di raccontarlo il bene, perché se noi non facciamo anche la fatica di raccontarlo il bene, c'è il rischio che pensiamo che sia passato di moda e che non esista più. Vero, il cosiddetto storytelling, chiamiamolo storytelling così. Storytelling della buona vita, delle buone esperienze, delle buone azioni, ma nel senso alto del termine, per cui giustamente sentiamo anche la necessità che ci sia qualcuno che si dedichi a queste buone storie, a queste storie positive, magari con un senso nuovo, con una dedizione nuova anche dal punto di vista della comunicazione. Sono nate dei siti, sono nate esperienze, stanno nascendo esperienze che guardano anche a questo, perché c'è bisogno di rompere questo ghiaccio di, come dire, di sfiducia, di indifferenza, di delusione, no? di una sorta di depressione che abbiamo comunitaria, sì, che non ha, che fa fatica a ritrovare ragioni profonde di verità, ma anche di un sorriso alla vita. Vero, poi c'è anche un altro fattore che io, diciamo, parlando di memoria, di ricordo, eccetera, un popolo smemorato quale il nostro è anche facilmente manipolabile. O sbaglio? Siamo condannati a ripetere una storia che magari nel frattempo abbiamo dimenticato. È il grande insegnamento. Purtroppo la storia non è maestra, nel senso che purtroppo ha allievi molto distratti. E allora, in questo senso, noi crediamo invece che sia da recuperare fino in fondo, oggi più che mai, il senso di questo. Certo che oggi è un tempo nuovo, lo vediamo, perché le sfide sociali, economiche, della globalizzazione, dei meccanismi della democrazia, dei grandi potentati economici che influiscono sulle nostre vite. Noi siamo dentro ormai un circuito in cui è tracciata tutta la nostra vita. Vero. E qualcuno sa tutto quello che noi facciamo, dove siamo, che cosa realizziamo, i nostri gusti, le nostre passioni, quello che realizziamo. Allora, da questo punto di vista, siamo dentro questo circuito, ma anche perché c'è un'ispirazione cristiana che ci fa dire che oggi noi siamo nel mondo ma non del mondo, e noi dovremmo stare dentro la modernità, però avendo fino in fondo il senso profondo della dignità, della straordinaria bellezza della persona umana. Lo spirito critico, naturalmente. Assolutamente, che non è... distruttivo. Che non è distruttivo, che però non è acquiescente, cioè ha quella sana inquietudine di cui diceva sempre Sant'Agostino. Ci hai fatto per te, e finché non riposeremo in te, noi saremo inquieti. Ecco la nostra inquietudine. Ho l'impressione che bisognerebbe sottolineare un po' queste cose e ripescare un pochino, perché il problema del passato, eccetera, per i giovani in modo particolare, certo, sembra che sia un momento così vissuto, e quindi deteriore probabilmente, anche, oppure certo, inutile. Sul piano sociale, culturale e istituzionale, penso anche a quello che stiamo vivendo in questa fase rispetto ai temi del referendum, non entro. Ma che cosa ha significato la Costituzione per questo paese, no? Dopo la dittatura, dopo la guerra di liberazione, le conquiste, le storie di generazioni che hanno, come dire, non hanno avuto futuro perché sono state dentro una vicenda di guerra, sono state dentro una vicenda di conflitti, e hanno donato la loro vita perché ci potesse essere un giorno un futuro di pace, di libertà per tutti. Questa carta che condensa queste aspirazioni di un popolo e come dire, dà un suggello, no, nelle carte, in questa carta fondamentale di democrazia. Allora, su questo, giustamente, anche nel richiamo che sono venuto in questi premi alle giovani generazioni, di capire, di sapere perché si è arrivati a questo, che qual è stato il cammino che ha accompagnato, quali sono stati i sacrifici, i dolori, no, le fatiche, le speranze di intere generazioni che hanno voluto che questo paese qua, il nostro paese, l'Italia, potesse avere un giorno questa libertà che non è mai conquistata per sempre, ma che ogni giorno va ricordata, appunto, promossa, valorizzata e liberata anche da chi giustamente vorrebbe in qualche modo opprimerla, vorrebbe in qualche modo offuscarla ricorrendo ai sistemi delle oligarchie dominanti, a un pensiero unico, a, come dire, anche un sistema mediatico che sembra di a volte, distrazione di massa, a volte, diciamo, pensare, esatto, amministrazione di massa è un pensiero unico omologante. Ecco. Esatto, mi viene da pensare una cosa anche abbastanza banale, l'incremento, per esempio, è una cosa anche da sorridere se vogliamo, sì, l'incremento delle occasioni nel calcio, dal punto di vista televisivo, gli anticipi, i posticipi, cioè, eccetera, eccetera, Panem e Circenses, sì, sì, mi pare che sia qualcosa che abbiamo già conosciuto, certo, o sbaglio? Assolutamente, e allora da questo punto di vista noi sentiamo... Io penso, parlavamo di due figure come quella di Toniolo, Giovanni Paolo II. Noi sentiamo il senso del dono, il privilegio di essere dentro una storia di valori, di esperienze che dà senso e pienezza alla nostra vita. Questo poi è il tema. Certo. E nel stesso senso sentiamo una responsabilità che non, come dire, non è che la cediamo ad altri, la prendiamo tutta integra, ciascuno di noi stessi per primi. Sì. Non la scarichiamo su altri. Allora, su questo noi diciamo: c'è una visione piena di umanità, di comunità, persona, famiglia, sistema, no, di la sussidiarietà, questi valori che mettono in luce anche queste esperienze dal basso, questo modo di stare insieme, questa idea di collaborativa, cooperativa, è il senso del premio Toniolo del prossimo anno, cioè il tema della cooperazione, che cosa oggi vuol dire in termini di risposte rispetto alle grandi sfide economiche. Ecco, questi che sono valori fondanti, queste che sono esperienze, la grande dimensione della libertà, della giustizia a livello internazionale, che cosa sta facendo comunque ancora oggi la Chiesa per promuovere il bene, la promozione anche a livello internazionale delle popolazioni più povere, delle, no, di meccanismi, ecco, nell'ottica della giustizia e della pace internazionale. Ecco, su questo noi, come dire, non dobbiamo declinare il senso della nostra responsabilità, ma essere più che mai in campo e costruire reti importanti di persone che hanno voglia di, come dire, di raggiungere, insomma, di mettere in campo questa esperienza. Questa secondo me oggi è la grande novità. È la grande sfida. E allora noi non possiamo convertire nessuno con, giustamente, come diceva il nostro Antonio, con il muso imbronciato, ma col sorriso di chi ha una speranza, ecco, di chi non si affligge come coloro che non hanno speranza, ma che ha una speranza. Assolutamente. E la coltiva l'anima nel senso del ricordo, ma nel senso anche del futuro. Andremo altrimenti a negare la nostra stessa natura di cristiani. Assolutamente. Perfetto, allora noi ci andiamo ad ascoltare il nuovo brano, che è sempre di Achille Togliani, Come pioveva. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un porto. Elegante nel suo velo, con un bianco cappellino, dolci gli occhi sua di cielo, sempre nel stesso visino. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta di un piano, quando d'inverno al mio cuore si stringeva, come pioveva. Come pioveva. Come stai, le chiese un tratto, bene grazie disse tu, non c'è male poi distratto, guarda che acqua viene giù, che mi importa se mi bagno, tanto a casa devo andare, o l'ombrello t'accompagno, grazie, non ti disturbare. Passa tempo una mezz'ora, io la chiamo, lei fa no, dico via senza paura, su monti hai monto. Così pian piano io le presi la mano, mentre il pensiero vagava lontano, quando d'inverno il mio cuore si stringeva, come pioveva, come pioveva. Ma il ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza di candore. Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, nei begli occhi di passione una lacrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se felice chi lo sa, ma se ricco se perduta. Ed eccoci di nuovo in studio col dottor Zabotti, al quale vorremmo chiedere, diciamo, in questo periodo di massima velocità, di modi sincopati, cioè di vivere sempre alla grande, sempre di corsa, e qual è l'importanza della sedimentazione dei ricordi? Nel senso, abbiamo necessità, come abbiamo detto, di avere qualcosa che non sia effimero, in vecchi monumenti, monumenti del passato, sia culturali che, diciamo, religiosi e compagnia, hanno avuto necessità di una lunga gestazione. Io lo avverto, cioè è l'importanza della sedimentazione del ricordo. Io lo avverto in una cosa molto semplice, molto pratica. Nel giorno in cui, nel tempo questo appunto del fast, no? Del veloce, esatto. In cui con un semplice cellulare noi possiamo fare non delle foto, fare degli scatti continuamente, c'è bisogno di recuperare. Le persone stanno recuperando il senso dell'album fotografico, il senso della carta, il senso di quello che si può toccare, di quello che resta fisicamente uno spazio e che si può consultare, non che è limitato negli anni, nei tempi, e che, come dire, dà il senso anche di una scelta, di tutto quello che accompagnava questo rito, che era certamente il rito della foto, ma è il rito dello scritto, è il rito del libro, è del mettere nero su bianco, è dell'occupare anche una fisicità. E su questo io credo che le dimensioni che oggi si vedono, anche a livello di comunale, di paesi, questo bisogno di nuovo di identità, di ritrovare il senso della memoria, di come eravamo, è effetto anche di uno spaesamento, perché evidentemente in una società globalizzata che sta omogenizzando tutto, c'è bisogno, in questa solitudine che nasce nelle persone, nelle famiglie, dei punti di riferimento, di ritrovare. E qui oggi lo ritroviamo proprio coltivando ancora con forza il senso della nostra memoria, di quello che siamo stati, esatto. Di quello che siamo, di quella che è la nostra identità, di quello che è la nostra cultura, che ovviamente va nell'ottica del dialogo, della relazione, ma va anche nell'ottica di una riscoperta, soprattutto per le giovani generazioni. Vero. Io vengo dalla terra di Andrea Zanzotto, che col suo vecchio parlare oggi ci ricorda che c'è il senso di una lingua, c'è qualcosa della lingua, non solo patria, ma matria la chiamava lui, no? Di un qualcosa che ci è nato. Allora, come a dire, non demonizzare quello che è stato, perché oggi, ma valorizzare quello che era stato il senso di una storia legata alla natura, legata a quei mestieri, legata a quel tipo di civiltà, perché noi non abbiamo nulla di cui vergognarci, ma abbiamo tutto invece da riscoprire, da rimettere dentro un'ottica di stratificazione, di un qualcosa che ci appartiene, di un qualcosa che ci vede eventualmente, se no, impoveriti, perché è un qualcosa che è dentro di noi, è nel nostro DNA, è in quello che c'è nel latte materno che ci è stato trasmesso. E in questo senso la cultura trevigiana, veneta, insomma, noi siamo dentro una grandissima storia, penso anche alla vicenda veneziana in particolare. Allora, su questo lo testimoniano, certo, Venezia, ma lo testimoniano l'entroterra, lo testimoniano la civiltà che abbiamo, le testimonianze religiose, storiche, artistiche, la bellezza del nostro paesaggio, la cura di quello che è stato. Tutto quello che, sì, è stato anche dissipato, ma che oggi, grazie a una ritrovata sensibilità, perché poi necessità e virtù, oggi no, forse non l'abbiamo, facciamo più per virtù, ma lo facciamo per necessità, perché abbiamo bisogno di ritrovare un ambiente che sia salubre, che sia positivo, che sia a favore dell'uomo, ecco, ritrovare il senso di queste radici, della bellezza che salverà il mondo. Allora, da questo punto di vista, noi siamo per valorizzare questa identità, siamo per valorizzare la cultura, che perché rimette in relazione le persone, che se no oggi, prive di riferimento, vivono il senso di una desolante a volte solitudine. E allora, in questo senso, bisogna rimettere in moto tutto quello che noi siamo, quello che è stata quelle che sono le nostre appartenenze, quelle che sono le nostre matrici culturali. E ecco, da questo punto di vista, ripeto, anche come movimento cattolico, io ne sto facendo esperienza anche come scrittore in questo periodo, curando anche dei libri, ecco, per vicende importanti della cooperazione aziendale del nostro territorio. Quanta storia, quante figure straordinarie di persone, quanta iniziativa in tempi che non erano, naturalmente. Ecco, in tempi che non erano certamente più facili di oggi, assolutamente, ecco, no. In cui si vede quanta intelligenza, quanta fedeltà, un'ispirazione, quanta volontà di mettere in campo espressioni positive, quanta forza e volontà di solidarietà vera, di promozione dei più deboli, di capacità di mettere in moto i meccanismi anche di impresa che fossero però una logica di valorizzazione sociale, anche di valorizzazione sociale, di attenzione alle dinamiche comunitarie. Ecco, questo è il nostro DNA, questa è la nostra storia. Ecco, da questo punto di vista noi dobbiamo attrezzarci perché questo diventi sempre più, insomma, tesoro nostro, senso, certo, di un orgoglio giustificato, che però non si mette nella dimensione di una separatezza o di un isolamento, ma si mette nel senso di una relazione. È come dire, da veneti, da trevigiani, recuperare fino in fondo questa storia, queste radici, per dire la modernità oggi deve ritrovare, ecco, come il senso del Tognolo, questo tipo di visione del mondo, questo tipo di altezza, di profondità di pensiero. C'è da dire una cosa a proposito di reti sociali, di social network, eccetera. Sì. Recentemente capita un fenomeno abbastanza curioso, i flash mob degli iscritti a Facebook, per esempio, che si ritrovano fisicamente perché c'è la necessità di ritrovarsi. Quindi questo vuol dire che chiaramente nulla è per sempre, l'ubriacatura tecnologica e sociale, social più che sociale, diciamo, non porta a niente se non a ritrovare vecchi principi e vecchi valori che sembravano dimenticati. È anche il senso del dire che non basta la vetrina, non basta il web, non basta la tecnologia, non basta la relazione virtuale. Perché evidentemente noi siamo uomini nella nostra fisicità e abbiamo bisogno della stretta di mano, di guardare una persona negli occhi, di mettersi nel senso della comunicazione, nel senso dell'abbraccio, nel senso di un qualcosa che dia il senso anche della verità, perché purtroppo l'altra faccia di Facebook e dei meccanismi oggi, no, che viaggiano per dei vari meccanismi sono anche, come dire, che possono generare generalità false, esperienze negative, cose che hanno purtroppo risvolti drammatici anche nell'attualità di oggi. Quindi da questo punto di vista è come dire, certo, non possiamo essere fuori dalla storia, siamo dentro la vicenda anche della tecnologia di off, con le straordinarie opportunità che ovviamente in tempo reale vengono offerte dal punto di vista della comunicazione, della condivisione e quant'altro, ma oggi noi dobbiamo ritrovare fino in fondo il senso della nostra verità. E dobbiamo sfruttare queste capacità per poter essere efficaci, perché io ritengo che sì, convinti, ma l'efficacia dell'azione è altrettanto fondamentale, o sbaglio? Assolutamente, noi dobbiamo ritrovare il senso dell'agorà, della comunità, dello spazio aperto in cui però mettersi nella relazione vera con le persone e quindi ritrovare questo senso comune, questo senso di una impresa comune dentro la modernità, però con vorrei dire con un tratto antico, questo senso di comunità, se vogliamo, che vuol dire la stretta di mano e vuol dire la fiducia. Vero. Questo è quello che manca oggi, è la fiducia, un recupero della fiducia è fondamentale, perché credo che nella credibilità, nella voglia di condividere le cose semplici, le cose belle della vita, i mediatori di una volta, di farlo sempre più. E io dico, penso alle nuove generazioni, penso ai nostri figli, sempre più creare occasioni perché le famiglie non siano sole, non siano sole nella dinamica educativa, non siano sole di fronte alla comunicazione, rispetto alle agenzie di formazione, ci sia questa capacità di fare rete, di unire le persone, di unirle sempre e non dividerle. Questa è la grande sfida di oggi e credo che anche il senso che ha dato il convegno di Firenze, la Chiesa italiana su questo, più che mai ai cristiani laici è affidato questo compito. Noi siamo sulle vie del mondo, sulle vie della storia. Diventa un compito sempre più importante proprio per queste generazioni che oggi devono affrontare questo tempo nuovo. Anche perché la diffusione capillare dei laici sul territorio è fondamentale anche come sensori, o sbaglio? È un patrimonio inestimabile. Noi vediamo oggi, lo vediamo nelle vicende ecclesiali, parrocchiali, nelle iniziative associative, quanto veicoli di solidarietà, quanto volontariato nasce rispetto a quello che emerge, no, dalla dinamica della società, quanta disponibilità, quanto bene c'è, ed è, come dire, sotto traccia. Latente. I premi ogni tanto hanno questo grande merito di far emergere, insomma, quello che di buono, di importante, di alto c'è nelle nostre comunità. Dobbiamo farlo più spesso, trovare il modo per valorizzare sempre di più quello che davvero si sta facendo, spesso nel nascondimento, e vorrei dire, noi dobbiamo essere creatori e anche comunicatori delle buone notizie, perché questo aiuta a vivere meglio. Vero, c'è un articolo di qualche giorno fa di Ferdinando Camon, scrittore, dove si parlava di festival, di tutte queste cose qua che sono importanti, eccetera, ma sono come un'indigestione di cultura. Servono delle pillole di cultura, serve una diffusione, una pasturazione del territorio continua. Non so se lei è d'accordo. Oh, assolutamente, è una fatica, ma qui appunto torna l'importanza della rete. cioè come dire, non l'episodicità, non come dire l'evento, esatto, diciamo, l'evento spot magari, eh? Ma proprio questa capacità di tessere, no? Mi ricordo il teologo Sartori diceva questa grande capacità per i cristiani di stare, di fare comunione mettendo insieme i lembi, cioè gli estremi. La comunione, come dire, non si fa coi centri, ma si fa con le periferie, cioè mettendo insieme i lembi. Mi sembra un concetto molto valido, sul quale naturalmente interromperci un attimo per ascoltare l'ultima canzone in programma, che è Signorinella, sempre di Achille Togliani. Signorinella pallida, dolce di l'impettaia del quinto piano, non v'è la notte che io non sono in Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una panse, poi mi dicesti con la voce tremula, non ti scordar di me. Bei tempi di ballaria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza. Il mio piccino, vecchio libro di latino, ha trovato, indovina, una pensée, perché negli occhi mi tremò una lacrima, chissà, chissà perché. E gli anni e i giorni passano, uguale grigi con monotonia, le nostre foglie più non rinverdiscono. Signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e fo il notaio. Lente lontano, mentre di penso suona la campana della piccola chiesa del Gesù. E nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu? Eccoci di nuovo in studio con il dottor Marco Zabotti, al quale lasciamo la conclusione di questa straordinaria chiacchierata. Io sono qua solo per dire grazie, un saluto ancora davvero a tutti, ma è un saluto, come dire, che raggiunge tutti E vorrei che raggiungesse tutti anche in questa, così, la serenità di questa serata, di questa domenica, no? Di questa conclusione di settimana, ma come dire, anche preparazione spirituale per la nuova settimana che andiamo a incominciare insieme. E allora intanto si riflette sul tempo, e sul tempo e sulla fortuna della nostra salute. Io proprio l'altro giorno sono stato a trovare in un reparto di oncologia un carissimo amico e a Treviso, e ci siamo abbracciati, e in quel momento ho trovato il senso della vertigine nella divisione di qua e di là, come a dire, ci siamo salutati 3 mesi fa in occasione di un convegno, delle cose importanti, ci siamo ritrovati in un letto di ospedale con la sua vicenda che io sto accompagnando con la preghiera, con l'affetto. È come a dire, e qui è il tempo, che cosa ci è donato e che cosa noi dobbiamo in qualche modo capire, sentire ed esprimere nel senso della gratitudine. Dicevamo, signor Tagliaferri, che è la via della pace. Allora io dico sempre, essere grati per tutto quello che abbiamo, per tutti i doni che noi, come dire, non consideriamo, e ogni giorno basta una semplice cosina particolare dei nostri figli o delle nostre persone e siamo tutti in allarme, siamo tutti preoccupati, siamo tutti, e in questo tempo in cui ci sono tante fatiche anche in tante famiglie, tante persone, tante mamme, lo sappiamo purtroppo, che afflitte dalla malattia, da tanti dolori, da tanti dispiaceri, da tante divisioni, da tante anche conflittualità. E noi, come dire, vogliamo anche, insomma, di assumerle, ognuno per la propria parte, dire che c'è, che noi siamo con loro, come dire che anche noi avvertiamo il senso di questo dolore. E questo ci fa solidali con l'umanità, ci fa stare pieni, ci fa stare dentro. Noi non possiamo essere fuori. Noi siamo per la gioia solidale, non siamo per la felicità individuale. Ecco, la gioia, questo è da sottolineare. È la gioia, il titolo di un libro di Sorrentino, è il senso di quello che noi vogliamo esprimere, perché c'è questa idea che è la cultura che anima certa, questa idea dei diritti, di questo individualismo esasperato, che è raggiungere esattamente, fa coincidere i sogni, i desideri, i diritti, e mette tutto assieme in un grande calderone indistinto. Noi siamo per una gioia solidale, che vuol dire anche il senso dei diritti e dei doveri, il senso di essere per noi stessi ed essere con ed essere sempre insieme. Perché crediamo che oggi la sfida sia oggi di far stare dentro ciascuno di noi, dentro un grande destino comune. Vero. E di farlo con tutto quello di cui siamo capaci. Nel senso di dire che le nostre persone devono, per tutto quello che riguarda appunto la nostra vicenda personale, di vita, di lavoro, di impegno sociale, di impegno educativo, di appartenenza, insomma, dentro questa nostra comunità, noi non dobbiamo mai dimenticarci che ci deve essere, insomma, un senso più alto, un senso più profondo di quello che noi siamo insieme. E quindi, da questo punto di vista, il senso appunto del ricordo vuol dire appunto ancora una volta questo cuore, che non va disgiunto dall'intelligenza, dalla sensibilità, dalla competenza, va messo tutto nell'ottica di un qualcosa di più alto, di più grande. Mi viene in mente, per esempio, quei poeti che vanno nelle case di riposo a dare il loro contributo straordinario di conoscenza, di ricordo, di memoria, eccetera, a questi concittadini che poi naturalmente ne traggono una gratificazione assoluta. E questo la ringrazio, perché questo mi fa dire anche che noi abbiamo oggi bisogno di essere, di unire. Noi siamo dentro un contesto anche politico che continua a dividere, che continua a separare, che continua a mettere in contrapposizione addirittura i dati generazionali. Mai come oggi, alla luce anche di quello che abbiamo detto prima, abbiamo bisogno del senso anche di una generazione, delle generazioni precedenti, che ci ricordano quello che siamo stati, che ci ricordano il senso profondo di una storia che è stata anche complicata, che è stata una storia di conquiste, di sacrifici, di grande lavoro, e quello che è lo straordinario lavoro che ha portato la nostra terra ad essere una terra di emigrazione, ad essere una delle regioni comunque più ricche nel cuore dell'Europa. Esattamente. E allora, da questo punto di vista, mai mettere, anzi oggi più che mai abbiamo bisogno che le generazioni nuove attingano, no, al senso profondo di questa verità. Chiaro, non una guerra tra poveri, no, come purtroppo sta addirittura accadendo. Estetica, perché tutto quello che oggi non è giovanile, esatto, veloce e bello rispetto ai social, rispetto ai meccanismi della comunicazione, sembra deteriore, sembra qualcosa che non ha valore. Esatto. È una sfida davvero grande che oggi si gioca. Una sfida culturale, quindi. Culturale. Noi siamo qui a riaffermare invece che questo paese, anche il nostro paese, anche l'Italia, le nostre comunità, hanno bisogno più che mai di essere unite, di essere messe nella condizione della coesione. Certo, e la storia del movimento cattolico nel nostro territorio è lì a ricordarci, e su questo magari vorrei qualche... Sì, così io, approfondimento veloce, diciamo qualche minuto. Io su questo proprio vorrei dire che c'è bisogno, lo sta facendo, penso a alcune iniziative, alcuni corsi, c'è un volontariato cattolico che si sta spendendo, ma vorrei dire che dobbiamo farlo ancora di più e dobbiamo farlo ancora meglio. Cioè nel senso che io vedevo, sto anche curando in questa fase alcuni temi, alcuni approfondimenti, alcune tracce, ci sono proprio aspetti importanti di vita, di figure che hanno segnato in profondità la vicenda di chiesa, di associazionismo, di sindacato, di impresa, di dedizione, di opere, di carità, di socialità. E sono biografie, sono vite di uomini illustri, ma illustri perché hanno dato davvero luce, hanno dato davvero valore al senso profondo della loro. E c'è una vocazione, io la chiamo una vocazione di santità, ma non perché noi dobbiamo prendere paura di questo, anche perché confondiamo spesso il senso di una santità riconosciuta sugli altari al senso di una santità quotidiana esatto. Che va giocato di tantissime persone che hanno dimostrato, vivendo l'ordinario con lo straordinario, di virtù, di bene, di dedizione, di sorriso, di pazienza, infinita pazienza, di collaborazione, di senso del bene, sempre comunque. Mi viene in mente i volti, le storie di chi non ha mai, ha passato la vita, non ha mai parlato male di nessuno. Oggi che siamo travolto dal pettegolezzo, dal gossip anche cattivo, da questo vociare anche di mass media che a volte toglie il senso della dignità delle persone. È un rumore di fondo, diciamo. E allora, come a dire, fino in fondo ritrovare le beatitudini e ritrovare il senso di dire invece oggi pienezza di vita vuol dire pienezza di umanità e non è perfezione della carità, diceva Tonini, la santità. E allora da questo punto di vista è una santità che noi cristiani laici, a cui aspiriamo non nonostante la nostra laicità, ma proprio in virtù proprio di questo. Proprio in virtù di questo, esatto. E c'è una cosa che mi pare di poter richiamare, che per i giovani sono necessarie delle figure di riferimento, quelle che forse in certo modo mancano oggi, non perché manchino da un punto di vista dei cristiani, ma perché sono piuttosto, come dire, latenti per il rumore di fondo di cui parliamo. Figure di questo tipo possono contribuire chiaramente a dare una, come dire, una prospettiva, a dare una soluzione a dei bisogni che questi giovani hanno inconsci e latenti, oppure no? I giovani hanno bisogno di, come dirà Paolo VI, non di maestri ma di testimoni, e di maestri perché erano testimoni. Oggi abbiamo bisogno, lo vedo, lo sento, lo condivido, anche a cominciare dalla vicenda della scuola, no? Anche tutto il bene che possono fare figure autorevoli di riferimento come gli insegnanti, cioè la capacità innanzitutto di voler bene, cioè di essere dentro una dinamica di relazione che fa capire che c'è un meccanismo di comunicazione, di formazione, di acquisizione di dati, di conoscenze, ma che c'è fino in fondo il senso l'empatia. Dell'empatia che deve scoppiare, che deve nascere, che deve mettere in moto e dire io ho cura di te perché io considero te importante. Ecco, su questo io credo ci sia la scommessa a partire da quella educativa che è centrale per la vicenda anche cristiana, che sia proprio un qualcosa che va. C'è bisogno di ritrovare tutto il bene che può provenire appunto dalle figure autorevoli di cristiani laici che si spendono sulla storia in tutti gli ambiti, ma con una capacità particolare di trasmissione con i giovani. Io ti voglio bene, ho fiducia in te, tu trovi sempre in me una persona disposta ad ascoltare, a sentire, a provocare, a stare con te, a condividere un sentimento, a condividere le difficoltà. Non c'è mai fine al dialogo, un colloquio incessante con le giovani generazioni per dire noi siamo stati come voi, oggi è un tempo nuovo ma noi siamo insieme, ed è questa la prospettiva che dobbiamo come dire assolutamente con grande anche pazienza e perseveranza oggi alimentare. Che io ritengo che sia di questo che i giovani abbiano bisogno più che di altro, più che di sermoni, più che di prediche, sì, e compagnia. Perché il fondamento di tutto questo è proprio il voler bene, il ritenere, il correggere anche se serve. E ritrovare il senso anche, vorrei dire, della bellezza. Della bellezza. Cioè, esatto. Questo fa parte della, fa parte della meravigliosa esperienza anche che il cristianesimo ha saputo realizzare. E in questo senso, ecco, una nostalgia per la cultura, per le cose alte, per le cose belle. Vero. Oggi io vedo che questo, per fortuna, sta rinascendo, si sta riscoprendo, nel senso della voglia di identità, di voglia di cultura, certo, voglia di ritrovare radici, voglia di ritrovare storia. Noi l'abbiamo. E da questo punto di vista noi dobbiamo mettere in moto, ecco, questi meccanismi virtuosi, queste pratiche positive, e soprattutto non sforzarci mai di, come dire, allontanare personalismi, rivalità, contrapposizioni, e di mettere insieme in rete tutto quello che c'è di buono e di positivo. Esatto. Questa è la grande sfida per l'oggi. È una sfida di speranza. Certo, certo, ma evidentemente di speranza vive e si nutre il cristiano. Certamente. E noi non possiamo fare altro che ringraziare sentitamente il dottor Marco Zabotti, che ci ha deliziato ancora una volta con le sue considerazioni. E naturalmente lo vorremmo, diciamo, cooptare anche per altre prossime occasioni, a Dio piacendo, per così queste piacevoli conversazioni che sono fondamentali, credo io, nella crescita spirituale di tutti noi. Grazie. Grazie, grazie e a alla voi. Prossima volta. E buona serata di cuore. A presto. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.